Olimpia, miti e verità dello sport, di Dario Ricci. Viaggio nelle menti dei campioni, ben ritrovati a Olimpia. Quest'anno ci muoviamo non solo per le strade della storia dello sport, ma abbiamo l'ambizione di sfidare i segreti più misteriosi degli dei dello sport. Proviamo a indagare nella loro mente, nei percorsi che si aprono e che permettono la realizzazione di imprese, o che, quando invece non si schiudono per portare la luce, portano le tenebre e portano ai fallimenti che pure fanno parte della storia dello sport. In questo viaggio la nostra, più che compagno di viaggio, è proprio la nostra guida che ci aiuta a scoprire questi misteri, è seduta qui accanto a me. Ben ritrovato a Stefano Tirelli, docente di tecniche complementari sportive all'Università Cattolica di Milano. Grazie Dario, e un grosso saluto agli ascoltatori di Radio 24. Ben ritrovato professore, questa volta voglio portarla alla scoperta della mente di un campione che abbiamo ammirato soprattutto per la sua straordinaria fisicità e gestualità. Beh, il lampo, e il lampo per eccellenza è Usain Bolt, che proprio poco fa, nell'agosto scorso, a Londra ha dato addio ufficialmente alle gare dopo una carriera stracolma di titoli olimpici e mondiali e primati del mondo sui 100 e 200 nella staffetta 4% giamaicana. Bene, ripercorriamo quei giorni londinesi ancora vivi nella memoria per un saluto alla carriera sportiva di Bolt, che forse è stato decisamente al di sotto rispetto alle aspettative. Ritorniamo a Londra in quei giorni dell'agosto scorso. Actually, 9.94 seconds. Well, was it Gatlin in lane number 8? Was it Coleman in lane number 5? The crowd drops. Justin Gatlin, with a time of 9.92 seconds, is the world champion here in London. His teammate Christian Coleman, 0.02 of a second behind, picks up the silver for a US 1-2. And Usain Bolt, in his final individual race, runs 9.95 seconds for bronze. Avrebbe dovuto risuonare sulla pista dello Stadio Olimpico di Londra il reggae giamaicano, così come del resto era accaduto 5 anni prima in occasione di quei giochi olimpici londinesi che Usain Bolt aveva dominato, vincendo 100, 200 e staffetta 4%, come del resto 4 anni prima a Pechino. Invece, come sapete e come abbiamo sentito, l'epilogo della carriera del lampo è stato decisamente diverso. Appena terzo sui 100 metri vinti dal controverso Justin Gatlin, più volte in passato squalificato per doping, e dietro anche all'altro statunitense Coleman. E nella staffetta, l'ultima gara in carriera, è andata addirittura peggio. It's a brilliant bend by Great Britain. The Jamaicans have some work to do, so too the Americans. Britain, Jamaica and the United States. And look at this, from Mitchell Blake, it's Great Britain. Great Britain, yes! I can't believe it! Great Britain have taken the gold medal! Usain Bolt is limping down the track! La vittoria ai padroni di casa inglesi davanti agli statunitensi, e lui, Usain Bolt, che chiude senza neppure aver tagliato il traguardo nell'ultima frazione della staffetta, con uno stiramento che ha costretto l'asso giamaicano a sdraiarsi sulla pista senza concludere la gara. This is one of the reasons I decided, you know, it's time to go, because most of my seasons just keep getting worse and worse every year, and I'm getting older, so I decided that, you know what, it's probably time that I go. So for me, I'm just taking my time and I'm happy to go now, you know what I mean? È una delle ragioni per cui ho deciso di concludere ora la mia carriera. Anno dopo anno ho fatto sempre più fatica, ha spiegato Bolt. Ormai sono diventato vecchio, e dire che ha appena 31 anni. E allora meglio smettere, e sono contento di farlo ora. Così l'uomo che ha riscritto la storia dello sprint mondiale, con 8 ori olimpici, 11 iridati e i primati sui 100 metri, 9,58 e 200, 19,19 stabiliti entrambi ai mondiali di Berlino 2009, si è dovuto accontentare di questa uscita di scena davvero poco gloriosa. Un'uscita di scena che commentiamo con un altro amico di Olimpia, inviato della Gazzetta dello Sport e collega che ha seguito dal vivo tutta la carriera di Usain Bolt, intervistandolo più volte. Andrea Buongiovanni, ben ritrovato a Olimpia, la città dello sport. Ben trovati voi. Andrea, ti aspettavi un Bolt così deludente a Londra? No, onestamente no, e credo che in pochi avrebbero potuto immaginare una conclusione del genere. C'erano dei dubbi circa il suo stato di forma, la sua condizione, perché anche nelle settimane precedenti aveva fatto vedere di non essere il solito Bolt dominante e assoluto numero uno. Però da lì a dire che appunto sarebbe finita come è finita, con un misero bronzo, misero per lui, nei 100 e quel ritiro forzato nella staffetta con tanto di infortunio, insomma, ce ne passava. Ecco, in mezzo c'era una via di mezzo che forse era più consona al personaggio e è una conclusione che poteva essere migliore. Sotto il profilo tecnico, cosa non ti è piaciuto del lampo londinese? Beh, insomma, da un punto di vista della qualità di corsa, della possibilità di ottenere certi tempi con grande facilità, è chiaro che era un Bolt irriconoscibile. Appesantito, veramente scarso in partenza, incapace di uscire dai blocchi, lentissimo nella messa in moto, con un'accelerazione che non era più quella dei giorni migliori. I tempi che ha fatto lo hanno dimostrato, ma anche già nei meeting precedenti ai mondiali, tra Ostrava, Monte Carlo, persino l'uscita di Kingston a giugno, aveva detto che il Bolt vero era ormai un lontano parente di quello del presente. E poi appunto, come abbiamo già detto, anche da un punto di vista di atteggiamento, non era più l'Usain guascone, dirompente, sempre sopra le righe a cui ci aveva abituato. Era un Bolt molto più composto, benché sempre diverso dagli altri, insomma, con certi atteggiamenti, certe smorfie, qualche faccia, insomma, ma sembrava anche un po' meno spontaneo del solito, come se in qualche modo recitasse un po' una parte, un copione già scritto, e in questo senso era anche meno apprezzabile da chi per anni lo ha seguito e lo ha visto comportarsi in maniera anche un po' diversa. Hai centrato il punto, direi. Bolt a Londra è sembrato un po' recitare la parte di se stesso. Da un punto di vista tecnico l'abbiamo già detto, anche da un punto di vista di atteggiamento caratteriale, diciamo, era un Bolt al capolinea in tutti i sensi, un po' superato, un po' stanco, quasi anziano nonostante abbia solo 30-31 anni, un po' veramente al capolinea, insomma, da tutti i punti di vista. Lui l'ha sempre ripetuto che avrebbe fatto questa stagione come regalo per i suoi tifosi, per l'affetto che gli hanno dimostrato nel corso della carriera, il suo modo per ringraziare e per salutarli. Col senno di poi molti hanno sostenuto che avrebbe fatto bene a fermarsi dopo l'Olimpiade di Rio. Io dico che non è esattamente così, perché comunque chi l'ha visto gareggiare ancora anche quest'anno qualcosa di lui ha avuto, qualcosa ha ricevuto, e quindi insomma è stato bello anche a mo' di passerella vederlo correre per queste ultime volte. Certo che poi da un punto di vista tecnico il confronto con il passato è davvero stridente. Questo quindi il Bolt di Londra 2017, ma c'è stato anche un Bolt che per un decennio ha abbagliato lo sport mondiale. E fra poco lo rivivremo proprio con Andrea Buongiovanni. Professor Tirelli, beh, abbiamo un po' ripercorso l'esperienza londinese di Bolt, per molti aspetti deludente. Lei se l'aspettava un mondiale così sottotono da parte del giamaicano? Sinceramente sì, c'erano delle dichiarazioni dello stesso atleta molto molto chiare in merito, e poi magari ne parleremo anche di queste. Eh sì, allora prendiamoci un attimo di pausa, rivivremo ancora qualche spezzone della carriera di Usain Bolt e poi proveremo ad entrare nella mente del lampo. Cosa ti preparo? La tavola, prendo le pizze Roncadin. Pizze Roncadin, nel banco freezer. Vi presenta... Sono Nicoletta Carbone, diventerò la vostra salutare ossessione quotidiana, 7 giorni su 7. Dal lunedì al venerdì una rassegna puntuale delle notizie che arrivano dalla ricerca, commentata dagli esperti più autorevoli. E per chi vuole andare oltre la notizia, sul nostro sito ogni giorno approfondimenti, interviste, le risposte degli esperti, video e tutorial. Ma ci sarò anche nel weekend. Al sabato vi racconterò tutto quello che dovete fare e sapere per stare bene e per sentirvi meglio, solo quello che serve. E la domenica caccia alle bufale per riportare la verità nel piatto. La salute, il benessere e il cibo sano con Nicoletta Carbone, dal lunedì alla domenica alle 12 su Radio 24. Olimpia, miti e verità dello sport. Thinking of breaking up, huh? Or maybe even making up. Check it. I missed a part of you. I can't get back. Ritrovati a Olimpia, viaggio nella mente dei campioni. Questa settimana proviamo a scoprire i segreti del cuore, della testa, dell'anima e della mente del più grande sprinter della storia, Usain Bolt. La sua leggenda era nata a Pechino nel 2008, lo ricordo per aver avuto la fortuna di vederlo dal vivo in quell'occasione, col suo zainetto davanti alla camera di chiamata, guardava la lavagna come uno studente universitario. Dopo una mezz'oretta era in pista a segnare il nuovo record del mondo e la vittoria sui 100 metri. Davvero straordinario. Beh, riviviamola quell'Olimpiade e anche i passi successivi della carriera di Bolt, perché ci hanno regalato emozioni incredibili. And a fair start, Asafa Powell. Usain Bolt is also out well. Here they come down the track. Usain Bolt sprinting ahead, winning by daylight and setting a world record, 9.68. The wind is okay. New world record. How easy was that? Eccolo l'oro con tanto di record del mondo sui 100 metri a Pechino 2008. Pochi giorni ed arriva il bis sui 200. Si era anche mosso un po' io, sembra. Si è mosso proprio lui, che fa già una grande partenza. È una gran curva per lui. Velocità supersonica, adesso vediamo se continua a volare fino al traguardo, se ci regala qualcosa. Usain Bolt si mette in scia, Sean Crawford. Usain Bolt spinge fino in fondo, attenzione che spinge fino in fondo, ha il record del mondo, incredibile, con un metro di vento contro. Attenzione che potrebbe essere corretto il tempo, potrebbe essere corretto, stavolta non ha scherzato, 19.31 con un metro di vento contro. Attenzione al tempo ufficiale, 19.30, record del mondo. Michael Johnson è nella storia e Usain Bolt ha già corso nel futuro. Passa un anno e a Berlino, ai mondiali, il libro dei record sui 100 e 200 viene aggiornato. Allora, Andrea Bongiovanni, inviato della Gazzetta dello Sport, rivissute ora alcune delle più strabilianti prove di Usain Bolt. Ecco, qual è stato secondo te il Bolt più bello mai visto in carriera? Ah, è facile dire quello delle triplette olimpiche o quello delle triplette mondiali, insomma. Direi che i suoi anni migliori sono stati il 2008 e il 2009, con quello che ha fatto prima a Pechino all'Olimpiade e poi ai Mondiali di Berlino. Insomma, quelli sono stati veramente gli anni del Bolt migliore, sia da un punto di vista prestativo che da un punto di vista, come dire, del personaggio a tutto tondo, capace di far invertire la rotta a un mondo, quello dell'atletica, che stava andando un po' alla deriva e che lui praticamente da solo ha saputo risollevare con le prestazioni, ma anche con il suo modo di proporsi. E poi è evidente ci sono stati degli anni successivi comunque grandiosi, l'Olimpiade di Londra, la stessa Olimpiade di Rio dell'anno scorso, insomma a Mosca quando vinse per un centesimo, oppure appunto ai Mondiali di Pechino del 2015 quando vinse per un centesimo soltanto contro Gatlin nella finale dei 100. Sono stati 7-8 anni straordinari, secondo me irripetibili da tanti punti di vista, difficilmente ci sarà uno che potrà raccogliere l'eredità e sicuramente l'atletica in generale sentirà molto molto la sua mancanza. Andrea Bongiovanni, grazie per essere stato anche oggi ospite di Olimpia. Grazie a voi, un piacere. La straordinaria carriera di Usain Bolt, ma professor Tirelli mi diceva che quella pessima partenza agli ultimi mondiali di Londra era proprio la spia che ormai la voglia era andata via per il lampo. In questo caso la parola chiave che vorrei utilizzare è la parola choking. Cos'è il choking? È quando noi abituati in modo quasi automatico a fare tantissimi gesti, in questo caso atletici, con naturalezza, con spontaneità, mentalmente andiamo in tilt, ossia c'è una alterazione proprio anche di parametri fisiologici, capacità visiva, percezione spazio-tempo, quindi il nostro corpo non lo sentiamo, non lo viviamo come quando milioni di altre volte invece lo abbiamo attivato. Infatti in quella partenza è come se il corpo di Bolt non fosse di Bolt, c'era evidentemente una lentezza che non era naturale e infatti la forza mentale di Bolt è sempre stata invece la sua naturalezza, la sua, tra virgolette, spensieratezza. Quando manca questo lo vediamo per esempio anche nel tennis o nel basket, per esempio nei tiri liberi. Choking è proprio il momento di smarrimento tra l'automatismo di quella che è l'attivazione neuromuscolare, gestuale, e quello che invece è la realtà di fatti, quindi non riusciamo più a controllare il nostro corpo. Ecco professore, analizzando invece proprio il momento dell'uscita di scena di Usain Bolt, quell'infortunio che ha tirato fuori sia lui che la staffetta giamaicana dalla finale, da una possibile medaglia, può essere in qualche modo legato anche a questa preparazione mentale tutto sommato deficitaria? Ma in realtà più che difficoltà o scarsa preparazione mentale, in questo caso io parlerei di una non capacità mentale di focalizzare l'obiettivo. Perché però? Perché non c'era la motivazione. E quindi in questo caso noi abbiamo visto tanti esempi nei quali gli atleti che non hanno, uso una parola forse forte, voglia di fare ciò che devono fare, infortunarsi. Anche da un punto di vista della medicina cinese, per esempio, ci sono dei canali importanti su cui l'agopuntore lavora. Nella catena cinetica posteriore, che è quella che riguarda i muscoli della schiena, dei glutei, della coscia e dei gemelli, quindi del gastrocnemio, ecco, ci sono dei canali che risentono molto dei livelli di stress e lì si ha più facilità di infortunarsi. Sicuramente io credo che Bolt sia stato molto stressato prima di arrivare a questa competizione, perché diceva proprio che avrebbe smesso volentieri un anno prima. Probabilmente la forza degli sponsor ha vinto in questo caso su quelle che erano le reali motivazioni, ma non ce n'è, non c'è denaro, non c'è sponsor che tenga quando la nostra voglia non è così forte. Non c'è arousal, si dice nella psicologia dello sport, perché non c'è attivazione neuromotoria, neuromuscolare, in questo caso atletico, necessaria per far fronte ad un evento di massima importanza, e l'infortunio spesso è l'elemento che ci dice: guarda, smetti. Su questo sembra davvero deciso il nostro lampo e andiamo verso la chiusura, professore, perché ha detto non mi rivedrete in pista, non voglio entrare nella schiera di quegli atleti che dopo aver annunciato il ritiro sono tornati a gareggiare e se ne sono dovuti quasi vergognare, insomma, ha fatto capire. Da questo punto di vista, come si può aiutare a livello di mental coaching un campione e immagino un Bolt, come è stato anche ad esempio un Totti nel calcio, a fare questo passaggio, a cominciare ad avere la visione del domani senza l'attività sportiva di cui è stato un dominatore? Attraverso quello che io chiamo il processo della metamorfosi, la visualizzazione di sé nel presente, nell'analisi del passato e la visualizzazione di sé nel futuro, in particolare in quale direzione? Quella che ci piace di più. In questo caso Bolt ha una grande passione per il calcio, una grande passione per tutto ciò che è show, spettacolo. Quindi io sono convinto che si sia preparato già visualizzandosi, immaginandosi nella metamorfosi, quindi nella trasformazione di un nuovo ruolo che però deve avere in sé il piacere di essere fatto. Grazie a Stefano Tirelli per essere stato anche questa volta la nostra guida qui a Olimpia nel viaggio alla scoperta delle menti dei campioni. Grazie Dario, un grande arrivederci a tutti.